Cioè, ma le fede se ce le facciamo ce le dobbiamo pagare noi. È per quello che manca il personale, non è capito. Ma cosa sono trattati proprio male questi dottori? Ma io... Sì, conviene essere così a conto tuo. Non conviene più essere... Infatti un bel niente, si manda e fa la libera professione. In chi ti va, se ne va pure giorni da 12 ore, mi. C'è questo ragazzo che c'è qui, che oltre a farsi le notti, si fa anche turni da 12 ore, poveraccio. A me la dottoressa ha detto che praticamente ce ne sono molti che vanno in pensione di questi medici generici, no? E praticamente non se ne trovano più, perché tutti i medici che ci sono fanno la specializzazione, diventano ortopedici o pediatri, capito? E allora, Cristina fa la fidanzata di questo che c'è qui sotto, è a Cagliari che sta facendo la specializzazione in geriatria, è già dottoressa, però sta facendo la specializzazione. Questo qui è psichiatra infantile addirittura, hai capito? Ho capito, sì. Tutti hanno la specializzazione, è difficile trovare un medico giuridico. Infatti. Ma il suo travaglio è andare i pilari, bovaraccio, li va, se ne va un casino di ore, e non ti credere che siano pagati molto. Quando sono specializzati si aprono gli ambulatori loro e si fa zelina a 100 euro a colpo. Certo, se non devo fare la visita al cuore, io dovevo fare il cardiogramma, e ho telefonato a questo qui che era convenzionato e ho detto: ascolti, ma voi siete convenzionati? Sì, ma non ci abbiamo più per la convenzione. E facendolo pagando, ho detto: pagando se posso anche stasera. Sono andato la sera, non c'era un'anima viva nata lì a dire che era Gabriele, non c'era un'anima viva, lui avrebbe potuto visitare tranquillamente, invece ha preferito intascarsi i soldi. Ma Rasucci, è così, purtroppo la sanità se ne sta andando allo sfascio, perché non ne sanno, cioè non c'è gente, ha bisogno di uno andare a travagliare i pilari. È un casino, anche i dottori che c'erano in ortopedia sono trasferiti, un paio di dottori si sono trasferiti, tutti quelli bravi se ne sono andati. Figurati. Infatti adesso l'unica al policlinico che c'è un'equipe che viene da fuori, operano con robot, non hanno, dice che non hanno un millesimo di sbaglio, non può sbagliare niente. Infatti, ma chi ci saranno i bagagli profumatamente, non hai compreso? Se no non si erano i muviti, di Rudy Grio, quelli si muovono perché sono pagati bene, vuol dire. Vabbè, ma Natalì, hanno operato il marito di un'amica mia e il fratello di questa amica mia, tutti e due all'anca, camminano tutti perfettamente, in poco tempo hanno riacquistato la camminata. Me lo posso immaginare, quello che ha operato a me addirittura se ne è andato da Nuoro, perché c'era il primario che gli stava bloccando la carriera, ma te ne immaginate? Perché sono chirurgi anche. Allora se ne è venuta a Sassari e sta facendo il primario di chirurgia lì, al policlinico. È giovane, ma lo sai cazzo, bravissimo come medico. E tu al policlinico sei stato operato, Natalì? Allora, tutte e due le volte al policlinico mi hanno operato a me. Ma pensavo all'ospedale civile io. No. All'ospedale civile. Beh, la prima volta sì, la prima volta te l'ho fatto all'ospedale civile perché ti ho accompagnato io. No, ti ho detto che mi hanno operato tutte e due volte al policlinico. Tutte e due volte al policlinico mi hanno operato. La cistifella, ma poi che ci vuole, cosa vuol dire operarmi? Prima la cistifella, la giusta da quello dell'ernia. A all'ospedale ero stato ricoverato per la pancreatite. È vero? Ma non mi hanno operato, no? Comunque all'ospedale ti ho accompagnato una volta, all'ospedale civile, o ti ho accompagnato e sono venuto a prenderti, non me lo ricordo. Però mi ricordo che all'ospedale civile ti ho fatto qualcosa. Mamma. Ricoverato per la pancreatite sono stato. Ah, ecco, e allora già avevo ragione, non so come sei vinchiato. Io non ti sto dicendo se sei vinchiato già, però non mi hanno operato in chili. Mi hanno operato tutte e due volte al policlinico. A ripilare non è normale, no. Non... Sì, la pancreatite te l'hanno fatta lì, cosa no? Che eravamo al tempo del docudao, come ti dice. Conce, se mi dà che va ridà. Al policlinico non mi sarei fatto toccare, a chi timo, cioè all'ospedale civile. Mi sono ricoverato al policlinico proprio per quello, per farmi operare. E mi ha messo a scegliere cosa si vuole operare, l'ernia o la cosa, o la cistifera. Prima penso che sia, siccome mia zia mi aveva avvertito, non ti nidrumi. Infatti per subito della gistifella, ma cosa, se ti viene un attacco vi rimani. E allora mi sono fatto operare subito la gistifella. Poi dopo un paio di mesi mi sono fatto operare all'ernia. E l'ernia dove ti è venuta? Ma che sforzo hai fatto? No, deve essere, c'era già la lesione, che ne so. Sedendomi in macchina di Marco. Ti è venuto un dolore forte. Allora mi esci da fuori l'ernia. Allucinante. E io poi sto portando a Taiso, così almeno io sto tranquillo. E infatti meno male, ragazzi. Almeno te ne ha tolto quell'incombenza, se non ti vuoi muovere. Sono veramente bravi al policlinico. C'è a fianco la sala operatoria per l'ortopedia. E poi c'è la chirurgia normale, la prima è quella della chirurgia, la seconda è quella dell'ortopedia. E io dovrò andare nella seconda. Ma ascolta, ma qualcuno mi ha detto che si paga, vero? Che si paga? E cosa devi pagare? Io non ho pagato nulla. Se la cosa si può fare convenzionata con l'USL, non paghino. Vabbè, com'è la prassi per il ricovero? Devi farti fare il foglio dalla dottoressa, Lucia? E penso di sì, ti fanno il pre-ricovero prima di farti in tutti gli esami e da poi dopo reggiano. Ti dicono quando devi andare, ma ti chiamano subito, mi. Ti chiamano, non ti gridi di salzi in chi la pigli tempo, no? Come ti ripilari. Attualmente ieri un anno e rotti tu, o cantieri, senza si operato. In chi mi ti chiamano subito? E con tutto che conoscevo un dottore, ma mi ha detto già io non posso fare nulla, se il primario decide che c'è altra gente io non li posso mettere in mezzo, io glielo ho detto tante volte che stavi soffrendo, che questa c'è altra gente prima, e cosa gli devo dire? Conoscevo anche un dottore che è bravo, che è quello che mi ha operato, quindi... E c'eravamo grossi, il dottore entrava e si baciava tutti i gatti e finì. E i chirurghi sono una sagoma. E adesso quello lì è al policlinico. Meglio così. Quindi io mi sono trasferito addirittura a quella vecchia e mi ha detto che il marito l'ho chiamato prima del tempo. Ehi, se si liberano i posti, loro non stanno a perdere tempo, no? Non è come l'ospedale, lì c'hanno il posto libero, ti chiamano subito, ti fanno fare prima il ricovero, no? Che ti fanno fare gli esami, ti fanno compilare queste scartuffie e poi ti chiamano. Quando ti chiamano, ti chiamano una di prima, mi pare, in domani cominciano a operare. E adesso devi andarci per le 7:30, 8 lì, devi essere. O devono più ricoverare dalla sera oppure dalla mattina alle 8. Ti operano, poi non lo so quanti giorni tengo, l'ospedale civile mi hanno tenuto 15 giorni a me, ma lì penso di meno, perché su internet ho letto che l'operazione è da 5 giorni di degenza. Oh, a me mi hanno operato un manzano e la sera me ne sono andato quando di lì, figurati. So, lei, parì. Vabbè, ma dipende dal tipo di operazione, Natali. La mia è molto più delicata che un'ernia. A me me ne devi dargli a russo e mettermi la protesi, non è che sia una cosa... il taglio non è indifferente, specialmente con chi è diabetico. Io ti tengo di più per vedere se il taglio guarisce subito, capito? Ehi, già lo so. Però per lui mi abituare, Romanzano mi hanno operato, a me mi hanno chiamato dal giorno prima perché ero il primo che dovevano operare, no? E allora alle 8:30 dovevo essere già in sala operatoria, capito? A me è vero, quando mi hanno operato al menisco la mattina sono andato e la sera me ne stavo andando con le stampelle. Figurati, e al policlinico sono svegli lo stesso. Al policlinico più di chi tu tanto non ti dai a ne rentare più dare, no? A Baidani si è guarita la birida, ti negavano i ripunti e ti si mandano. Allora, speriamo bene, dai, perché io questa cosa la voglio risolvere, speriamo che non attivi le nuove alle lunghe, perché uno ti dice devi fare la lastra, l'altro ti dice adesso che bisogno c'era di fare la lastra, mi dovevano far fare la risonanza magnetica direttamente e basta, è fatto il gioco, o no? Ma loro guardano tutto, sia la risonanza che la lastra, in sala operatoria il chirurgo deve sapere cosa sta facendo, capito? Meglio così. Sì, allora qua è tutto già. Andiamo, è proprio me andiamo, ma cosa, pure duro sai? Ah vai, drogato. Vai, cocuomane. Cosa? Sì, anch'io lo so, perché anche Gianni lo sa, vero già? Lo piace. Gianni Borgia. Ciao. Oh, mi sono mangiato 3 pizzate di funghi che veramente, guarda, squisite, croccanti, belle, le ho masticate, che è una bella. Cosa hai mangiato, Lu? 3 pizzette di funghi, già, 3 pizzette di funghi. Le pizzette, quelle sono buone. La fa anche sotto casa le pizzette, già sono buone anche qua, però quelle di funghi sono particolari. Quelle di Oggiano sono di gran mesa, non mi piace. Donna, lui voleva vedere a lì, capitola, e se ne è mancato 3 pizzetti. Luca Pudiche, ma è parente tua, Stefani? No, Luca Pugioni si chiama. Ah, Pugioni, scusa, io mi ricordavo Pudiche. Hai capito, Luca Pugioni? O dico il numero di telefono? Ma farà Luce. Perché ci è spaventato, capito? E l'altro faccio una pera. Tu credi? Allora se prende di tirare, se fede su tiki tocchi. E cosa sto facendo? Il fruscio? No, sto facendo le live. Cosa sto facendo? Le live. E si mette nudo? No, parla con la gente, ci sono 4-5 che parlano e lui fa il cappuccio. Luca! Non parla, lo fa apposta, lo fa, per farmi incavolare. Ma io lo faccio parlare con Muromi. Fai diritto alla riunione e dopo io non è più. E magari effendia che cosa, boh. Sono al telefono. E allora, su TikTok deve essere. Magari sta mettendo l'olio F. Tra l'altro è così, è così. Olio F. Ah, l'olio F. Invece che Elf. E allora, il cane poliziotto. Già faceva ridere, là. E una volta che siamo andati al Alghero, il Beautiful, te lo ricordi? E allora? E si sono risali che non ha cavato, che non ha cavato il coso, il fond, per scongelare il pane, mi sono con il ballo. Aspetta un attimo che devo aiutare da 5 anni. Eia. Luca. Vabbè, ma stai uscendo, dimmi quando tu verrai, dimmi quando. Tatari, devo chiudere, se no me ne vado, se non rientro. Bubu. Sono rientrato. Gianni.